Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, dopo aver trattato in queste puntate, in queste settimane, temi che riguardavano molto l'economia italiana da vicino, la manovra finanziaria, l'evasione fiscale, la pressione fiscale, torniamo, ahimè, a un tema classico, ossia i mercati. Perché? Perché dopo, va detto, almeno 3 settimane di sedute tutto sommato tranquille, per carità, con uno scossoni vari, ma che poi venivano recuperati il giorno dopo, con chiusure tutto sommato alla fine della settimana riportavano in pareggio l'andamento dei titoli. Oggi il mercato ha preso una bella botta, sta recuperando perché è arrivato a perdere 4,20-4,30% Milano, adesso perde il 3,84%, Parigi perde il 3,5%, Francoforte il 3,1%, Londra il 3%, l'America pesante, visto che il Dow Jones è un indice che si muove in valori percentuali un po' di meno, meno 2,22%, il Nasdaq meno 2,80%, e ancora l'euro è scivolato, e lì invece il movimento è stato ancora più brusco, da 1,23,3%, che era il livello 1,23,1, 1,23,3, a cui stava viaggiando in questi giorni, a 1,21,80%. E ancora anche nei confronti del franco svizzero, nei confronti della sterlina, l'euro si è molto indebolito. Come però capite dagli indici, non è un problema solo europeo oggi, è un problema di tutte le borse. Questa mattina non era arrivata un'indicazione fortissima dal Giappone. Il Giappone aveva perso l'1,2%, peggio ha fatto Hong Kong, meno 2,3%. Diversi fattori, anche perché ad essere colpite, come sempre avviene in questi casi, sono soprattutto le banche. Intesa San Paolo perde il 6,70%, la Popolare di Milano perde il 5,40%, Unicredito perde il 4,60%, Ubibanca il 4,30%, il Monte dei Paschi il 4,80%, molto male Fiat, meno 5,50%, e anche Autogrill, meno 5,20%, Ansaldo meno 5, Impregilo meno 4,60, un titolo legato al risparmio gestito come Azimut meno 4,5, Tenaris meno 4,4, Fondiaria meno 4,4, Mediobanca meno 4,3, Italcementi pure, il 4,3 lo perde appunto anche Ubibanca, anche Saipem, il 4,2 il calo di CIR e il 4,1 di Exor, scusate, Fondiaria Sai meno 4 come Banco Popolare e Bulgari. Mi fermerei con chi perde appunto più del 4%, tutti gli altri titoli perdono tra il 3,80 di Buzzi Unicem e l'1,80 di A2A, insomma perdono poco. Terna lo 0,4, Campari l'1%, A2A appunto l'1,80%. Per quello che riguarda il mercato, e di questo parleremo. Che cosa è successo? Timori sulla Grecia, sì, ma non solo questa volta, timori anche sull'operazione della Banca Centrale Europea, che deve andare a rifinanziare oltre 400 miliardi di prestito concesso un anno fa e che si avvia a scadenza. La forza dello yen sull'euro è in dubbio, vedo già alcuni che scrivono, siamo a 107,86. Insomma, timori vari, tra cui anche la Grecia, certo non hanno aiutato le parole di Nouriel Roubini, che ha detto in sostanza per la cosa migliore per la Grecia sarebbe un fallimento accompagnato, un fallimento guidato. Però insomma, anche il rifinanziamento, di nuovo il tema del debito dei vari paesi, insomma, speriamo che sia solo una giornata e non l'inizio di un nuovo scossone. 349-238-6666 per i vostri sms. Comunque ci occuperemo anche di Italia, di economia reale, perché avremo i dati del settore dell'acciaio come promesso per quello che riguarda i mercati, e la vicenda Tirrenia che già affrontammo mesi fa. Oggi se ne è occupato anche Oscar Giannino questa mattina a 9 in punto. È una vicenda in cui non si riesce a privatizzare la Tirrenia per tutto un insieme di vincoli. Alla fine di tutte le varie proposte, l'unica rimasta sul campo è quella che vede come principale azionista la regione Sicilia, e non mi sembra un periodo in cui le regioni devono mettersi a comprare anche aziende di trasporto, ecco, se vogliamo dirla tutta. Comunque, 349-238-6666 per gli sms e le altre notizie in breve. Petrolio è in calo, come sempre avviene in questi casi, le tensioni sui mercati, le tensioni sulle borse portano in calo anche il petrolio, ha perso quasi un 4% a $75.2 al barile. E poi dalla Cina arriva una notizia strana, sarà la Cina a mettere dei dazi questa volta, dazi antidumping, ossia contro chi vende prodotti sotto il livello di costo, antidumping sull'acciaio e sul ferro importati dall'Unione Europea. Lo ha comunicato il governo attraverso l'agenzia Nuova Cina. Perché, insomma, la Cina accusa l'Europa di farla cinese, se mi passate il gioco di parole. Dice che l'Unione Europea sta vendendo ferro e acciaio con una pratica appunto sotto il prezzo di costo, e questo ha creato danni all'industria cinese e manifatturiera nel settore del ferro e dell'acciaio. Queste tariffe, dazi dal 6,1 al 26%, quindi pesanti, dureranno almeno 5 anni. Drastica revisione, sempre di Cina stiamo parlando, del superindice economico della Cina. Ad aprile ha segnato il minor rialzo da 5 mesi a questa parte. Da contro un'attesa di un più 1,7 si è scesi a un più 0,3%, e questo sembrerebbe confermare che l'economia cinese ha ormai superato il picco quanto a accelerazione, dopo che nei primi 3 mesi dell'anno è cresciuta di quasi il 12% il PIL cinese. Allora, dall'America notizie contrastanti, cala la fiducia dei consumatori, cala anche in maniera consistente rispetto a 62,7 punti che era il livello di fiducia dei consumatori americani a maggio, siamo scesi a giugno a 52 punti, 10 punti in meno contro ogni attesa, peggio di ogni attesa. Invece l'indice che misura i prezzi delle principali abitazioni americane è salito in maniera forte, del 3,8%, il maggiore incremento dal settembre del 2006. E Barack Obama oggi ha detto, dopo un incontro con il presidente della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, Ben Bernanke, ha detto: attenzione, l'economia americana si rafforza, ma resta molto lavoro da fare, e soprattutto è il mercato del lavoro quello che ci preoccupa. L'Italia, dal prossimo 1 luglio arriveranno i pedaggi su alcuni tratti gestiti dall'ANAS, quindi non autostrade ma ANAS, la fattura elettronica anche e il geodivite sulle spese della pubblica amministrazione per le varie celebrazioni. C'è un decreto legge infatti che contiene questa manovra attualmente all'esame del Senato. Parleremo anche di regioni più avanti per capire, insomma, come va avanti questo dialogo. Oggi il presidente della Regione Lombardia, Formigoni, ha detto, insomma, avremo un incontro a breve con il ministro, il dialogo fa passi in avanti. La governatrice della Regione Lazio, Renata Polverini, ha detto: attenzione, la strada del dialogo è quella giusta, non si parli di regioni virtuose ma di comportamenti virtuosi. E allora parliamo di comportamenti virtuosi, visto che abbiamo citato la presidente della Regione Lazio, Polverini. Chissà se è un comportamento virtuoso quanto deciso, devo dire, a livello bipartisan lo scorso 15 giugno, ossia la Regione Lazio avrà la sua rivista bimestrale. Obiettivamente mai più senza, come titolava una vecchia rubrica di Cuore anni fa, si sentiva la mancanza in Lazio di una rivista bimestrale. Si chiamerà CRL, la rivista del Consiglio Regionale del Lazio. Per carità, una regione può fare quello che vuole, il timing, il tempismo ci sembra non dei migliori, anche perché qualche costo questa rivista bimestrale ce l'avrà, collaborazioni, stampe e quant'altro. E tra l'altro, pochi mesi fa il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato il budget per il 2010 che prevede una spesa di 87 milioni in aumento dell'8% sul 2009, quindi alla faccia del controllo, diciamo, della spesa delle regioni. Di Tirrenia parleremo. Parleremo di Tirrenia, visto che ieri è scaduto il termine ultimo, è rimasta solo Mediterranea Holding, appunto il 37% in mano alla regione Sicilia, il 30% all'armatore greco Tomasos e il 18% al gruppo Lauro. Erano 16 le offerte iniziali, si sono tutti ritirati per via di vari ostacoli sorti per l'acquisizione e la privatizzazione di Tirrenia. Allora andiamo col primo tema. Vedo qualcuno anche un po' nervoso che dice: i cinesi i dazi li hanno da sempre. Beh, quelli sull'acciaio per dumping no, è assolutamente una notizia che ci ha lasciato perplessi. Ma andiamo a ragionare di mercati, abbiamo cercato anche di parlare di altro. Adesso però il tema è tutto su questo calo intorno al 4% nelle varie borse europee, del 2,20 negli Stati Uniti, un calo apparentemente, devo dire, inatteso, visto che era appunto intere settimane che i mercati, sì, con alti e bassi, ma sembravano essersi un po' tranquillizzati. E il fuso orario oggi andrebbe guardato, il fuso orario a livello mondiale, perché Tokyo è chiuso in calo, ma dell'1,27%, quindi un calo, insomma, tutto sommato assolutamente archiviabile come ordinaria amministrazione. Poi però Shanghai ha chiuso con un meno 4 e Hong Kong con quasi meno 3%. Il fuso orario, poi si arriva all'Europa, sorge il sole e canta il gallo in Europa. E l'Europa inizia a aprire subito male e poi va via via peggiorando fino a circa un'ora fa, quando Milano e le altre borse europee perdevano oltre il 4%. Mercato valutario, vediamo gli aggiornamenti. L'euro è crollato ai minimi dal 2001 nei confronti dello yen, per cui ci auguriamo anche turisti giapponesi in Europa e l'esportazione della moda italiana verso il Giappone. Comunque l'euro sullo yen è a 1,2182, ma è sceso a un minimo appunto dal 2001, non era così debole contro la valuta giapponese, a 1,22. Scusatemi, 107, stavo guardando il dollaro, è 1,2282 e l'euro sullo yen è sceso a 107,8, adesso siamo a 107,7, livello, ripeto, più basso dal 2001. E la sterlina, siamo a 0,80, il franco svizzero a 1,3183. Che cosa è successo? Lo chiediamo a Walter Rioffi del Sole 24 Ore, che è il nostro ospite. Buonasera Walter. Buonasera. E saluto e ringrazio anche per essere in collegamento con noi da Francoforte, il corrispondente del Sole 24 Ore, Beda Romano. Buonasera Beda. Buonasera. E capirete anche perché ci occupiamo di Francoforte e della Banca Centrale Europea. Walter, cerchiamo di ricostruire la giornata per quello che riguarda l'andamento. Dicevo, molto male l'Asia, soprattutto Shanghai e Hong Kong, la Cina meno. Abbiamo letto di varie tensioni, cioè tensioni di liquidità sul mercato europeo. Walter. Sì, oggi è stata la giornata degli equivoci o comunque dei pretesti. Tutte le spiegazioni che sono state date spiegano una piccola parte delle cadute dei mercati azionari e anche e del rialzo di quelli obbligazionari oggi, e in ogni caso molte di queste sono pretestuose. Allora, prendiamo quella che veniva data per l'Europa, la scadenza, vanno rimborsati 400 e rotti miliardi di soldi alla BCE, quindi la BCE adesso si ritroverà a rifinanziare il sistema bancario europeo con una maggior richiesta rispetto a prima. Sarà giovedì questo, niente di stupefacente, perché questo qui era noto già da parecchi giorni ed era abbastanza scontato, specialmente dalle banche spagnole che hanno bisogno di liquidità. Quindi questo qui non è una notizia e non si capisce bene perché questa abbia influito. In ogni caso viene addotta questa spiegazione che sembra un po' pretestuosa. Forse più interessante è quello che è successo in Cina, dove un leading indicator, che è un indicatore sintetico, perché è la sintesi, il superindice, la somma di una specie di superindice, insomma, di altri indicatori, è stato rivisto al ribasso nettamente, più 0,3 anziché più 1,7. adesso mi pare, vado a cito a memoria. Sì, sì, no, lo dicevamo prima, più 0,3 invece che 1,7, allora, tutti hanno detto l'accelerazione cinese. È una cosa ridicola, un buon economista se lo calcola lui il leading indicator attraverso gli altri indicatori, quindi... Mm. Quello non c'è nulla di nuovo da questo uh-huh. punto di vista, anche questo non è, può darsi che abbia fatto una sorpresa per chi forse non aveva calcolato bene o non aveva previsto questo. Fatto sta che la borsa di Shanghai, ed è questa la cosa rilevante, è caduta di oltre il 4% e siamo ai minimi dall'aprile del 2009 che è in caduta questa borsa e siamo arrivati a quei livelli, no? E allora questo probabilmente ha innescato tutta una serie di problemi anche in Occidente, ma perché? Perché già l'Occidente ha la coda di paglia, perché lo sa benissimo che la ripresa economica di o è cinese parlava, o non è. Da noi è assai debole, sia in Europa sia negli Stati Uniti, e questo a dispetto dei vari indici di fiducia che non contano proprio un bel niente e non danno nessuna indicazione. Tanto per dire, venerdì scorso quello del Michigan negli Stati Uniti al massimo da quanti anni, da 2-3 anni eccetera, perché non si capiva perché doveva essere al massimo. Oggi questo del Conference Board, che è un pochettino più attendibile è di quello sceso, dell'Università del Mise, invece è sceso e siamo ai minimi degli ultimi, cioè 6-7 mesi, eccetera. Stiamo facendo, cercando di prendere le farfalle con retino, perché tante farfalle in giro, le farfalle cinesi su una frenata di un'economia che faccio notare ha segnato un più 11,9% nei primi tre mesi dell'anno, anche se facesse un più 9, poco conta. Da una parte, dall'altra la fiducia dei consumatori americani che è calata, ma insomma un motivo di nuovo vero, forte, robusto non si riesce a trovare. E adesso vengo a Beda Romano invece per quello che riguarda la Banca Centrale Europea e avanzo un'ipotesi. Beda, oggi sul Financial Times si diceva che le banche spagnole sono molto critiche con la Banca Centrale Europea perché hanno timore che non voglia rinnovare il maxi finanziamento alle varie banche europee, non solo alle quelle spagnole, da 442 miliardi. Tra l'altro, secondo le stime di Barclays Capital, le banche di Spagna, Irlanda, Grecia, Portogallo e Italia hanno avuto in prestito dalla Banca Centrale Europea prestiti per 151 miliardi di euro che scadono questa settimana. Però oltre a questo c'è la Grecia e appunto le parole di Rubini che dice beh, la Grecia bisogna accompagnarla verso un fallimento pilotato, e la Grecia oggi ha avuto i CDS, i premi delle polizze assicurative per chi compra debito greco, schizzare a livello a 1000 punti, cioè vicinissimi al record di 1125 punti, e così come abbiamo visto anche altri elementi di tensione sul mercato. Volete sapere quanto perde Madrid? Madrid è tra le peggiori, meno 5% in questo momento, e sarà un caso, ma ieri in Spagna è saltato per aria, è fallito, si è dichiarato insolvente il primo gruppo immobiliare, si chiama Sacresa, e ha annunciato un indebitamento di 1,8 miliardi ed è il terzo, dopo Martinisa e Habitat, gruppo immobiliare in Spagna a dichiararsi insolvente, è il primo gruppo immobiliare catalano, scusatemi, non spagnolo. Allora, Beda Romano, cos'è? Si sta cercando di fare una pressione sulla Banca Centrale Europea in modo che non abbia dubbi a rifinanziare il prestito, forse così? Ma credo che il Financial Times abbia messo in luce solo un aspetto della vicenda. Come diceva Walter Riolfi prima, le banche spagnole sanno perfettamente e da tempo che l'operazione a un anno sarebbe scaduta all'inizio di luglio, e da tempo la Banca Centrale Europea ha deciso di effettuare in luglio, agosto e settembre tre operazioni a tre mesi con ammontare limitato e tasso fisso per venire incontro agli istituti di credito in difficoltà e che hanno bisogno di liquidità. Quindi il problema della liquidità non credo che sia così sentito né in Spagna né in altri paesi europei, perché la banca ha già detto che avrebbe comunque messo a disposizione denaro fresco. Il punto è in realtà un altro, il punto è la maturità di questa liquidità. Stiamo gradualmente passando da operazioni finanziarie della parte della BCE di 12 mesi a operazioni invece dove la maturità è inferiore, intorno ai 3 mesi. Ed è evidente che per le banche, qualsiasi banca, ma in particolare quelle più in difficoltà, si tratta di rimettere a posto i conti e completamente riaggiornare il loro programma di rifinanziamento. Allora, credo che ci possa essere pressione da parte di alcune banche di avere comunque a disposizione, non tanto quest'anno ma l'anno prossimo, delle operazioni a 12 mesi. E la BCE sta cercando di arginare queste pressioni, perché il tentativo della banca è quello di imporre agli istituti di credito di tornare a un sistema più normale. Quindi siamo in una fase in cui la banca sta cercando prima di tutto di ridurre la maturità di queste operazioni straordinarie, pur fatte, come dicevo prima, a tasso fisso e ad ammontare limitato. Poi si vedrà nel prossimo futuro di tornare a un tasso variabile e a un ammontare limitato, ma in questo momento la BCE non sta facendo questo, sta cercando di imporre alle banche di uscire allo scoperto, di ripulire i propri conti, di non contare esclusivamente sulle operazioni di liquidità della BCE e di rivedere le proprie forme di finanziamento in modo tale da poter a un certo punto nel 2011 sperabilmente a un sistema di rifinanziamento normale. Allora, bisogna fare un passo indietro per far capire a tutti, anche quelli che scrivono al 349-238-6666. Quando la crisi è scoppiata, nella parte più virulenta, la Banca Centrale Europea ha, come fanno le banche nei confronti di alcune imprese di cui sono, con cui hanno rapporti, di cui sono creditori, ha messo sul mercato centinaia di miliardi di euro per dire: attenzione, se avrete bisogno di liquidità, invece che far saltare per aria il sistema bancario europeo, venite da me e ve la do a un tasso bassissimo, praticamente a costo zero, tasso fisso. Ed ecco come si è arrivati a questi 442 miliardi di maxi finanziamento, perché capite bene che sono l'ammontare di 10, 15 manovre finanziarie in una botta sola, di maxi finanziamento alle varie banche europee che ne avessero avuto bisogno, per non creare il panico. Ricorderete quando le banche non si prestavano soldi l'una tra le altre e il mercato, se tutto azionario, immobiliare, delle merci, si bloccò. Adesso, se ho ben capito il ragionamento di Bella Romano, la Banca Centrale Europea vuole lentamente tornare a una condizione di normalità, cioè nella vita non è normale che, è un po' come il prestito a suo tempo alla Fiat, fu una cosa eccezionale, 3 miliardi dati, poi lentamente ti faccio rientrare. Non è normale che le banche vivano grazie ai soldi che gli presta la Banca Centrale Europea, devono vivere grazie alla loro raccolta, ai loro impieghi, con dei criteri anche di sana e prudente gestione. E la Banca Centrale Europea, se ho capito bene, vuole dire: beh, adesso questo prestito che era un anno lo portiamo a 3 mesi, ancora a tasso fisso, ma lo portiamo a 3 mesi, di 3 mesi in 3 mesi ti vai a rifinanziare, in modo che tu sia più obbligato come banca anche a fare le pulizie in casa, non sia troppo comodo avere i soldi, e per arrivare poi fra un anno magari appunto a una situazione normale in cui le banche normalmente non chiedono i soldi in prestito alla Banca Centrale Europea. Walter? Anche perché questi soldi cosa hanno fatto le banche nell'ultimo anno? Forti di avere questo finanziamento, li hanno investiti in titoli Stato, li hanno investiti. Alcuni si trovano in difficoltà perché l'hanno fatto con una leva finanziaria enorme, considerando, pensando e anche per i principi di Basilea, che i titoli Stato non hanno rischio, quindi non necessitano capitale aggiuntivo. E invece adesso che alcuni Stati hanno rischio, la Grecia ma non solo, è più difficile. Io penso che li abbiano anche investiti in operazioni di trading altamente speculativo. I soldi pagati zero dalla Banca Centrale Europea investiti in operazioni di trading altamente speculativo, guadagnandoci molto. Abbiamo visto i bilanci delle grandi banche, infatti, tornare rapidamente inutile. Professor Mario De Aglio, buonasera. Buonasera. Lei insegna economia internazionale all'Università di Torino ed è editorialista della Stampa di Torino. È d'accordo, penso che abbia colto l'ultima parte del ragionamento di Beda Romano sulla necessità che la Banca Centrale Europea vuole dare un messaggio alle banche europee: attenzione, questa roba qua, questo aiuto continuo non può durare all'infinito, un po' come farebbe un buon padre di famiglia al figlio: ti presti i soldi però poi me li ridai, mi inizia a ridarmeli a tranche magari piccole, ma insomma la pacchia è finita, dovete ripulire i vostri conti. È d'accordo che sia questa l'operazione della Banca Centrale Europea o è una cosa ancora prematura? No, sono abbastanza d'accordo, ma direi che sono allarmato da questo, perché come lei diceva prima, in tempi normali si restituisce poco per volta, questi non sono tempi normali. Con questa restituzione di fatto la Banca Centrale Europea condanna l'Europa alla recessione. Siccome la recessione politicamente non ce la possiamo permettere più di tanto, qualche cosa salterà. Cosa? Magari la testa di Trichet. Eccoci. Allora, a un certo punto c'è poi un discorso politico da fare, o forse l'euro, diciamo, la coesione e la concertazione delle politiche economiche europee, perché si tratta di una cosa priva di senso, è un cane che si morde la coda. Ecco, bella Romana, se non voglio usarti come difensore perché non lo sei, della Banca Centrale Europea, però Mario Draghi dice, la traduco in maniera un po' brutale, ma vi sembra questo il momento di chiedere alle banche di rientrare con i prestiti concessi quando la recessione è tutt'altro che finita, l'economia europea riparte con fatica, i paesi hanno accumulato debiti, la Grecia è di fatto fallita, l'abbiamo tenuta in piedi con la bombola d'ossigeno, la Spagna rischia una cosa analoga, se ti metti a chiedere alle banche di ritornare i soldi, ecco che siamo a un meno 4,40 che è la chiusura di oggi di Milano, a un meno 5,20 che è la chiusura di oggi di Madrid, a un meno 3,80 che è la chiusura di oggi di Parigi, cioè, e di nuovo torniamo con questa Banca Centrale Europea che sta in un grattacielo così alto che non capisce cosa capita sotto in Europa. Io non credo che l'andamento della borsa di oggi vada necessariamente legato a quello che sta avvenendo sul mercato monetario e su come la Banca Centrale Europea intende rifinanziare il sistema bancario. Io capisco perfettamente quello che dice il professor De Aglio e temo di essere in parte d'accordo con lui. Detto questo, la banca, prima di tutto, è vero, c'è la restituzione di un prestito a 12 mesi, però la banca ha fatto un'altra operazione a 12 mesi che scade in settembre, quindi non è l'ultima delle operazioni a 12 mesi che viene a scadere, prima di tutto, e poi la banca ha comunque dato la possibilità, sta dando la possibilità agli istituti di credito di rifinanziarsi presso l'istituto monetario sia a livello settimanale sia a livello trimestrale a tasso fisso e ad ammontare limitato. Allora è verissimo che su base trimestrale non è facile per una banca in queste circostanze programmare il proprio rifinanziamento. E torno all'argomento di prima, se le banche spagnole oggi protestano è proprio per questo, perché in questo momento la base trimestrale del rifinanziamento presso la BCE è ritenuta impegnativa. Detto questo, lei ha posto il problema di come questo denaro viene utilizzato da parte delle banche. Sì. Viene utilizzato per aiutare l'economia o viene utilizzato per fare trading sui mercati? Questo è un altro tema, però io dico, non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, si può essere più stringenti sulle banche, obbligarle a finanziare l'economia, se no vengono tassate, e da un lato, e non fare solo trading, ma dall'altro non levargli, diciamo, il flusso di liquidità, perché sennò poi il mercato fa quello che vediamo adesso. C'è un tema che giustamente però sottolineano gli ascoltatori, professor De Aglio, che non abbiamo ancora toccato. Oggi non va male, malissimo, solo l'Europa, va molto male anche l'America, e qui però la BCE obiettivamente conta poco. Vorrei capire se c'è un legame tra queste due cose dopo il metro, la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:38 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa parte di Focus Economia, in cui stiamo parlando del nuovo tonfo delle borse a livello, ripeto, non solo europeo, anche se l'Europa fa un meno 4 a Parigi, un meno 4,5 a Milano, un meno 5,2 provvisorio a Madrid, un meno 3,30 a Francoforte, meno 2,70 a Londra, l'America perde il 2,3%. Poi sentiremo anche alcune dichiarazioni di Nuriel Rubini, che è quello che ha indovinato la crisi per primo, ormai è il guru della crisi, e anche del Nobel all'economia Paul Krugman, che va detto scrisse di un'economia drogata ai tempi di Bush figlio, in tempi non sospetti. Però, professor De Aglio, perché va così male anche l'America? Se, diciamo... Ma in America alle vicende europee si aggiungono altre due cose, una interna e una esterna. Quella interna è che i dati sulla fiducia del consumatore sono bassissimi e dimostrano che senza i sussidi la domanda del consumatore sta crollando anche lì, del resto sono tutti indebitati, è difficile pensare o illudersi che possa essere diverso. In più ci sono queste notizie che arrivano dalla Cina tramite Alcoa, il grosso produttore di alluminio, che racconta che le ordinativi cinesi potrebbero abbassarsi perché la Cina prevede di esportare meno a seguito della crisi europea, ed ecco che il cerchio si chiude. Quindi l'America si trova con una domanda interna che si prevede debole, in più la Cina, che dovrebbe poi sostenere tutta la ripresa mondiale, che potrebbe rallentare nel secondo semestre dell'anno. Mettendo tutto assieme si sono messi a piangere anche loro. Insomma, è incredibile, ma siamo aggrappati alla ripresa cinese. Ricordavamo l'indice di oggi, il superindice cinese, che è stato bruscamente calato da un più 1,3 a un più 0,3. I dazi cinesi al ferro e all'acciaio, che fanno ridere alcuni, ma attenzione, accusano i cinesi l'Europa di fare dumping, cioè non di vendere sotto costo. E quanto ricordava adesso Mario De Aglio, ossia il fatto che se l'Europa non consuma, anche la Cina vende meno, parliamoci chiaro, e anche l'America vende meno in Europa, ma soprattutto la Cina. E quindi insomma il cerchio obiettivamente si chiude. Il professor De Aglio, alcuni dicono, ma insomma, ma non era la exit strategy, la strategia per uscire dalla crisi, quella appunto che la Banca Centrale Europea e le banche centrali rientrassero un po' da questi enormi prestiti che hanno concesso alle banche di tutto il continente? Non era in qualche modo questa la linea? C'è una cosa di cui ci stiamo accorgendo, che chi dovrebbe, essendo al timone, avere una mappa molto chiara di quello che sta succedendo, in realtà non sa bene che cosa sta succedendo. Questa è una costante della crisi. Da quando è cominciata nel 2007 ci hanno detto che si durava 6 mesi, in avanti ci hanno sempre fatto credere che c'era, intanto che c'era una vera strategia, mentre c'erano soltanto dei tappabuchi, e poi comunque che non sanno bene cosa succede. Una cosa, per esempio, cosa hanno fatto le banche di questi soldi che si sono fatte prestare. Li hanno investiti in titoli di Stato, ma perché? Perché dovevano rafforzare il loro capitale, quindi non è che potessero tranquillamente prestarli a un'economia che andava male, rischiando di perdere, quindi ha messo in titoli di Stato pensando che fossero sicuri. Adesso che sono pieni di titoli di Stato, i titoli di Stato vanno giù, ed ecco che le banche vanno giù in borsa e trascinano la borsa con sé. Sì, che questo è l'altro problema, perché sarebbe un po' tecnico da spiegare, ma attenzione, se la banca compra titoli di Stato, siccome il rischio è molto basso, diciamo, ha bisogno di avere meno fieno in cascina rispetto al prestito fatto a un soggetto altamente a rischio, per obbligo proprio di Basilea, insomma, Basilea 2 e quant'altro, per cui comprare titoli di Stato è come fare un investimento molto sicuro, è come insomma se tu chiedessi un prestito in banca e mettessi come ipoteca una casa, diciamo, è una cosa sicura. Se come ipoteca metti, non so, il valore di bottiglie di vino, è già più oscillante, ed ecco perché si sono riempiti i titoli di Stato. Bedramano, per salutarti, anzi facciamo una cosa, vorrei leggere queste due dichiarazioni di Rubini e di Krugman. Nuri Rubini ha detto: attenzione, per la Grecia l'opzione migliore è il default, il fallimento ordinato, il fallimento pilotato si chiamerebbe da noi. È il momento di riconoscere che la Grecia non sta solo soffrendo di una crisi di liquidità, ma che si trova ad affrontare una crisi di solvibilità, cioè non può ripagare i suoi debiti. Come se non bastasse, appunto, il premio Nobel Paul Krugman ha scritto sul New York Times D-word, depressione, cioè ha usato la parola più odiata da tutto il mondo finanziario mondiale, e ha detto: temo siamo all'inizio di una terza depressione, che sarà probabilmente una lunga depressione, scritto con la L maiuscola e la D maiuscola, piuttosto che una grande depressione come quella del 29. A differenza delle altre due storiche depressioni negli Stati Uniti, quella del appunto 1873 e del 29, questa sarà dovuta principalmente a un fallimento politico. Noi abbiamo un unico modo per esorcizzare questa frase. A grande richiesta torna anche il gufo. Allora, Beda Romano, prima poi vorrei sentire Mario De Aglio e chiudere con Walter Riolfi. La lunga depressione non è male come titolo, noi giornalisti ci innamoriamo dei titoli, più che la grande depressione, dovuta principalmente a un fallimento politico. Sei d'accordo con Mario De Aglio che, insomma, detto con una battuta, non sanno che pesci pigliare, raccontano di strategie d'uscita ma non sanno neanche come ci sono entrati? Cosa vuole che dica? Mi dà del lei, Beda? No. No, non sì, la situazione è spaventosamente complicata e la Banca Centrale Europea è evidente che viaggia a breve termine, lo abbiamo visto più volte in questi ultimi 2 anni, insomma, lo abbiamo visto 2 volte. Non sarei sorpreso, francamente non sarei sorpreso, se oltre alle operazioni a tre mesi che ha annunciato alcune settimane fa, ormai operazioni a tre mesi ad ammontare illimitato e a tasso fisso, non sarei sorpreso se decidesse all'improvviso di reinserire le operazioni a sei mesi e a un anno. Certo, non sarebbe positivo da un punto di vista così formale, ma almeno da un punto di vista sostanziale andrebbe salutato positivamente. Quindi se facesse marcia indietro. Professor De Aglio, su questo è d'accordo con Krugman, insomma, che qua siamo di fronte probabilmente a una lunga depressione, non a una grande depressione? Come al solito non sa, neanche Krugman sa tutto, però in linea di massima mi sento abbastanza vicino alle sue posizioni, cioè probabilmente andrà così. E cioè avremo una depressione che non tocca gli spicchi spaventosi del passato, ma sicuramente sarà molto lunga. Qui mi vengono purtroppo dei pensieri agghiaccianti, ricordiamoci che dalla depressione degli anni 30 si uscì con una guerra. Io credo che il nostro scopo dovrebbe essere di impedire che questo ma perché parlate anche lei prima di fallimento politico? Cioè, cos'è? Mancano i consiglieri. Voi economisti dovreste dare qualche consiglio in più allora ai politici. Barack Obama, a parte Timothy Geithner, che abbiamo capito che è una bella figurina, ma insomma avrà il Krugman della sua in Rubini. Cioè, dategli qualche consiglio. Perché, voglio dire, si continua a dire la BCE viaggia con praticamente, guarda, in maniera miope, l'ho appena detto anche Beda Romano, cioè viaggia sul breve termine. La politica europea non si capisce bene cosa voglia fare. A Toronto i laghi erano bellissimi, ma di altre notizie non sappiamo. Perché il fallimento politico, De Aglio? La mia opinione è che a partire dagli anni Ottanta, quando si è abbandonato il keynesismo, si sarà anche fatto bene a farlo, ma si è abbandonato ogni gusto di pensare a lungo termine. Allora c'erano i piani e non andavano bene perché erano socialisti, ma i programmi erano accettati dal capitalismo di quel tempo. Non si facevano più programmi a lungo termine perché tanto c'è il mercato che ci pensa e siamo molto schiavi di questo mercato che tanto aggiusterà tutto. In realtà il mercato è una cosa bellissima, ma tutto non lo aggiusta, quindi dobbiamo riprendere a pensare a lungo termine, a pensare che i governi non hanno soltanto il compito di fare da notai. Allora, traffico, intanto ringrazio Beda Romano, traffico un minuto e poi la conclusione di questo approfondimento e chiaramente gli indici di borsa, ma vi dico che ci facciamo del male per nulla, oggi è una bella giornata di caldo, perché commentare Intesa San Paolo meno 7,80, Popolare di Milano meno 6,30, Fiat meno 6% con l'Italia fuori dai mondiali, vabbè, traffico. Allora, di nuovo in diretta con Focus Economia, Walter Rioffi, al di là adesso dello scenario politico, io vorrei capire, tu volevi intervenire anche sul ruolo delle banche, il rifinanziamento bancario e le parole di Rubini e Krugman sulla Grecia da un lato e sulla lunga depressione dall'altro, prego. Ecco, allora io non lo so se andremo verso un'altra depressione lunga o grande, eccetera, però mi pare molto piuttosto probabile che, come è sempre successo nei periodi in cui si doveva ridurre il debito, tutto il monte del debito che era tra Stato, privati, società, eccetera, si andrà avanti a un lungo periodo di crescita molto bassa, cioè molto più bassa di quello che era stata la media degli ultimi 30 anni. Per quanto riguarda la Grecia, poi un'altra cosa, i mercati sono da oltre un mese stanno già scontando e danno per fatto il fallimento della Grecia, che più. Poi vuol dire che verrà rimborsato il 30% del debito. Come gli obbligazionisti argentini. No, cioè, se mi sbaglio, il 70% del debito. Allora, non a caso, loro stanno già prezzando i titoli attorno a 70% o anche un po' meno perché hanno un margine. Ma questo qui è tra i mercati finanziari, tra il mondo degli obbligazionisti, degli operatori di bond, è dato quasi per scontato, no? E farebbe bene alla Grecia perché ripagare un 30% in meno almeno salverebbe un po' della sua economia. Farebbe male alle banche tedesche e francesi che sono molto che si esposte. Sono indebitati prima. La speculazione si è già posizionata ai titoli sotto 70, no? Quindi ci guadagnerebbe. No, ci guadagnerebbe. Ah, beh, certo. Vabbè, allora dico, se il mercato già, dà già per scontato che la Grecia debba, è fallita tecnicamente, la stiamo tenendo in vita col respiratore, stacchiamo, è brutta l'espressione, ma stacchiamo sto respiratore e andiamo avanti, perché non se ne può più. Sono d'accordo con chi scrive al 349 meno 5,50% Madrid, è la chiusura definitiva di Madrid, meno 5,50 non è male. Dicevo, sono d'accordo con chi scrive attenzione, la palla, se va avanti così, se andremo verso una lentissima ripresa economica, sarà una palla che passerà tutta ai politici, perché la politica sappiamo che quando deve gestire la stagnazione economica va anche in tilt, vanno in tilt anche le spese dei vari paesi, è più facile cavalcare quando l'economia cresce. C'è chi poi scrive, ma perché non credere che una guerra sia l'unico germoglio di una nuova economia? Insomma, e perché l'eugenetica, no? Grazie Walter Iolfi e a Mario De Aglio. Adesso cambiamo tema. E comunque chi vede nella guerra come futuristi, lei che lava tutte e monda le disgrazie, insomma... un po' di leggesse bene la storia, perché la guerra che è arrivata dopo la Grande Depressione americana era quella che si chiama, se non ricordo male, Seconda Guerra Mondiale. Vabbè, intanto abbiamo messo i Muse con una canzone che inneggia appunto alla rivolta nei confronti del sistema finanziario. Il sistema finanziario qua perde 4,50% inteso come Piazza Affari, 4% inteso come Parigi, meno 3,33% Francoforte, meno 3,1% Londra, meno 2,30% l'America. Uprising, il titolo, così adesso facciamo anche i DJ, torniamo a fare le persone serie. Livia Zancaner, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Di cosa vogliamo parlare? Allora, non so, delle banche mi sembra che ne abbiate già parlato. Ah, direi, appena. Meno 7, dai, leggo sugli indici, meno 7,70 il chiusura, scusate, meno 7,70 Intesa San Paolo, meno 6,30 Popolare di Milano, meno 5,60 Unicredito come Monte dei Paschi, meno 5,40 Azimut, meno 5,30 Ubibanca, meno 5% il Banco Popolare, meno 4,90 Fondiaria Sai, meno 4,60 Mediobanca e poi Generali meno 3,60%, Unipol meno 3,60%, Mediolanum meno 3,5% e ancora Lottomatica e gli altri titoli adesso li diamo. Dunque, il migliore Terna meno 0,60%, poi Campari meno 1,40%. Oltre alle banche va molto male Fiat meno 5,90% e anche Autogrill meno 5,33%, Impregilo meno 5,12%. Facciamo Fiat e Autogrill. Sì, allora Fiat ha ceduto il 5,9% facendo peggio del comparto, che in Europa ha perso il 4,4%. In realtà non ci sono oggi motivazioni particolari per il calo del titolo, se non la flessione registrata da tutti i listini europei e i realizzi dopo la crescita registrata dal titolo ieri, e che aveva spinto anche il rialzo di Exor, che è il socio di riferimento di Fiat, che aveva registrato la migliore performance sul paniere principale. Per quanto riguarda Autogrill ha risentito del calo del comparto, quindi dei titoli legati all'industria, visto anche le preoccupazioni sul rallentamento dell'economia di alcuni importanti paesi come Cina e Giappone, anche se in teoria avrebbe dovuto beneficiare anche della debolezza dell'euro, che invece ha premiato titoli, ha premiato nel senso che hanno perso meno dell'indice titoli come Luxottica, Bulgari e Parmalat. Allora sì, devo dire che su Autogrill tutte le spiegazioni del mondo saranno anche giuste, ma quando l'euro si indebolisce di solito Autogrill dovrebbe avere un minimo vantaggio. Vorrei commentare gli altri titoli dopo il GR, Livia, anche perché alcuni ascoltatori dicono meno male che c'è la Zancaner, l'unica nota intonata in questa cacofonia economica. Immagino che sulla cacofonia economica ci possa essere di cui discettare. Va bene, dopo il GR 349-238-6666 per i vostri sms. 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Abbiamo dedicato praticamente quasi tutta la prima ora ai vari elementi, al combinato disposto che ha portato le borse di nuovo a scivolare, per essere buoni, a cascare di brutto. Per essere onesti, meno 4,50% Milano, meno 4% Parigi, meno 3,30% Francoforte, l'America adesso perde il 2,40%, Madrid ha perso il 5,50%, la Grecia ormai il mercato la valuta tecnicamente fallita e prezza le obbligazioni greche, cioè i titoli di Stato greci, al 70% del loro valore, perché già di fatto sa che la Grecia non riuscirà a rimborsare le sue obbligazioni. Aggiungiamo il crollo nella fiducia dei consumatori americani, il calo fortissimo del superindice economico cinese e la paura europea delle banche spagnole, soprattutto che la Banca Centrale Europea chieda alle varie banche di non tanto rientrare, ma insomma non lasci il prestito da 440 miliardi fatto un anno fa, non lo rifinanzi nello stesso modo, ma lo rifinanzi a 3 mesi, mescolate tutto e shakerate e si arriva al risultato di oggi. Livia Zancanera, al di là di Autogrill e Fiat, chiudiamo anche su altri titoli, perché c'è qualcuno che ha beneficiato dell'euro debole a 1,21? Perlomeno, insomma, beneficiato è una parola grossa, però. Sì, infatti, allora c'è Parmalat che ha ridotto le perdite, possiamo dire a meno 2,4%. Infatti, secondo alcuni operatori, Parmalat quindi ha beneficiato della forza di alcune valute chiave nei confronti dell'euro, che oggi appunto è in calo verso dollaro e yen ai minimi assoluti nei confronti del franco svizzero, ma il titolo è stato premiato oggi anche dalle caratteristiche difensive e dall'andamento del comparto alimentare. Infatti il settore è riuscito a limitare le vendite per quasi tutta la seduta, ma ha poi ceduto l'1,21%. Altri titoli che erano riusciti a limitare le perdite, grazie quindi alla debolezza dell'euro, sono Luxottica, che ha ceduto il 2,6%, e Bulgari invece sul finale ha aumentato il calo e ha perso il 4,5%. Va bene, vediamo anche i migliori e peggiori in assoluto. Telecom Italia Media sul risparmio più 10,22, Marcolin più 4,40, Il Sole 24 Ore più 4,26%, Caltagirone più 2,5%, le peggiori in assoluto, Renault meno 9,92, GDF Suez meno 8,80%, Indesit Company meno 7%, Mondadori meno 7%. Grazie a Livia Zancaner, Radio Cori, Sole 24 Ore. Noi adesso cambiamo tema. Cambiamo tema, cioè ci occupiamo di Italia, perché resta tutto sullo sfondo della manovra finanziaria, e la dialettica resta tutta tra le regioni e il ministro Tremonti. Anche oggi nuove dichiarazioni di vari presidenti regionali, soprattutto Renata Polverini, presidente della Regione Lazio, che ha detto in sostanza: non si parli di regioni virtuose ma di comportamenti virtuosi, la strada del dialogo è quella giusta. E poi il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni: il dialogo con il governo fa passi avanti e attendiamo che Berlusconi, rientrato dall'estero, stabilisca la data per incontrarci. Poi molti di voi ci hanno scritto su questa cosa che mentre le regioni lamentano di non avere aria per respirare, viveri per andare avanti, la Regione Lazio, con decisione bipartisan, ha deciso di stanziare dei soldi per la rivista bimestrale, la rivista del Consiglio Regionale del Lazio, CRL, una regione che nel budget 2010 ha previsto una spesa complessiva di 87 milioni di euro, in aumento dell'8% sul 2009, insomma più 8%, un po' tanto alla faccia del controllo della spesa corrente. E continua il nostro viaggio nei vari presidenti di regione. Ringrazio allora il governatore, presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Non parliamo più di agricoltura con lei, o meglio, insomma, non oggi, e neanche di borsa, perché mi sa che insomma tra voi e le borse non so chi stia messo peggio in questo momento. Forse, esatto. Forse le borse, oggi le borse. Allora, Presidente Zaia, è d'accordo per il dialogo o la minaccia, diciamo, di riconsegnare le deleghe che la Bassanini vi aveva affidato? È una minaccia così estrema, ma quasi più retorica che realistica? Ma guardi, innanzitutto io voglio confermare la piena disponibilità della mia regione a fare la sua parte. In un momento nel quale stiamo per varare una manovra da 24 miliardi e 900 milioni di euro, è una manovra peraltro anche contenuta rispetto a quello che sta facendo la Germania con 80 miliardi e la Francia con 100. Certo è che se questa manovra dovesse essere praticata e diventare legge come è oggi, è difficile restare in piedi, perché tecnicamente noi dovremmo tagliare 350 milioni di euro nel bilancio 2011. Il che significa mettere a repentaglio tutto quello che sono le competenze che ci sono state trasferite. Ancora non basterebbe, perché dovremmo tagliare anche su altri fronti di spesa. Però con ragionevolezza e con fiducia guardo il governo e sono convinto che il governo, nel preparare il maxi emendamento, troverà la soluzione per recepire le nostre istanze. Ecco, dopo il traffico le vorrei chiedere alcune cose anche sulla Regione Veneto, su una forse mancanza di autocritica che è arrivata dai vari presidenti della Regione. Sembra quasi che tutte le spese siano sempre intoccabili. Però una domanda più di contorno e di scenario. Ma un ministro come Tremonti, che insomma da sempre è vicino alla Lega, è ministro del governo, ci mancherebbe. Secondo lei, insomma, cosa è successo? Perché voi dite 8 miliardi e mezzo in meno alle regioni in due anni ci fanno praticamente chiudere o bloccare la baracca. Ora, dubito che Tremonti andasse contro quella che è l'idea stessa dell'autonomia, non solo fiscale, proprio l'autonomia operativa delle regioni. Se l'ha fatto, forse cioè, lei si è data una risposta perché, insomma, voi vi ha caricato sugli enti locali la maggior parte della manovra? Semplicemente perché comunque si sta tentando di trovare la quadra. Ovviamente poi non è che uno ha la fibra ottica per andare a vedere nel minimo dei dettagli lo spreco o la virtuosità di ogni singolo ente locale. Quindi immagino che il ministro Tremonti abbia fatto quello che logicamente doveva fare, presentare una bozza di manovra sulla quale discutere. Se la manovra resterà tale saranno guai per noi, ma guai grossi. Se non resterà tale, io ho modo di pensare che comunque nel maxi emendamento ci siano spiragli e spazi per poter aver recepito le nostre istanze, allora vuol dire che il dialogo e il confronto sarà servito a qualcosa. Allora, dopo il traffico, Presidente Zaia, vorrei capire anche, insomma, non dico autocritica, ma forse poteva essere, cioè la prima reazione delle regioni è stata tutte, dico, quelle di centrodestra e centrosinistra, non possiamo più tagliare. Riconsegniamo piuttosto le deleghe. In realtà poi Sergio Rizzo, nostro ospite la settimana scorsa, ha raccontato sul Corriere della Sera e anche da noi che insomma le regioni, le sedi all'estero, le rappresentanze a Bruxelles, a New York, allora anche sul Veneto si è scritto tra le 60 e le 80 sedi di rappresentanza all'estero, le auto blu super accessoriate. Vorrei capire se veramente non potesse essere più costruttivo dire vabbè, guarda, noi riusciamo a tagliare questo ma di più no, e capire invece quali servizi non riuscireste a fornire. Un minuto di pazienza, il traffico 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta. Allora, Presidente Zaia, insomma, forse qualcosa però poteva essere più costruttivo, dire vabbè, noi siamo disponibili a chiudere qualche sede all'estero, tanto non è che da quelle arrivi chissà che cosa, però voi riducete un po' i tagli, possiamo ridurre le auto blu super accessoriate che, se non ricordo male, nella precedente gestione della Regione Veneto furono date alla Regione, e in cambio però tagliate un po' di meno su altri fronti. Cioè è sembrata quasi una difesa d'obbligo più che una difesa ragionata. Prego. Ma guardi, io le dico che questo paese con questi ragionamenti non va da nessuna parte. Le dico perché si sono lette delle merite palle sui giornali e il dottor Rizzo, tanto è vero che poi il giorno dopo ci ha dato anche il giusto spazio. La Regione Veneto non ha 80 sedi all'estero, non ne ha 70, non ne ha 60, non ne ha 50, non ne ha. Hanno le gambe corte e infatti la smentita è venuta e ci è stato dato lo spazio per smentire. E non ci posso far nulla se qualcuno allunga le notizie ai giornali e queste notizie sono dichiaratamente infondate. Mm-hmm. Prova ne sia che sono state contate come sedi della Regione le sedi di Trevisani nel mondo, cose ridicole, cose che non c'entrano niente con la Regione. Quanto alle macchine super accessoriate, noi abbiamo 12 assessori e abbiamo 6 auto. Se qualcuno vuole che le riduciamo ancora di più, riduciamo in più. Se qualcuno vuole che gli assessori girino in tram, gireranno in tram. Se qualcuno vuole che restino anche a casa, resteranno a casa, perché stiamo rasentando il ridicolo. Per cui su questo le dice: attenzione, noi abbiamo già tagliato il possibile. Questo voglio capire, non c'è altro da tagliare? No, perché le dico, ieri abbiamo visto un dato che riguardava la spesa pubblica del paese, non della Regione Veneto. Certo. Dal 2000 al 2009, quindi un pezzo di governo centrosinistra e un grosso pezzo di governo centrodestra, la spesa pubblica è passata da 500 a 800 miliardi di euro, alla faccia del tagli, tagli, tagli. E anche gli enti locali in parte hanno contribuito con i trasferimenti dallo Stato alle regioni. Allora non vorrei che, insomma, quando si tocca la scarsella, così ci capiamo, il portafoglio, tutti quanti dicono no, il mio no, quello dell'altro sì, ma il mio no. Prego, Presidente. Ma guardi, il suo discorso è ragionevolissimo. Tutti noi cerchiamo di puntare all'economia di scala e puntare alla virtuosità. Il mio Veneto ha un bilancio della sanità che chiude con più 11 milioni di euro quest'anno. Ci sono 4 regioni del sud che chiudono il loro bilancio, il loro buco della sanità vale circa 4 mezzo di euro di buco. Allora io dico, cioè, puntiamo ai standard, diciamo che se i genitori ti danno la paghetta ti deve durare una settimana, se qualcuno in giro per l'Italia invece di una paghetta alla settimana ne vuole 5 o 6 dovrà abituarsi ad averne una, come fanno molte regioni. Tutto qua. Ma quindi quello che voi, quando incontrerete Berlusconi e Tremonti, che chiederete cos'è? Perché abbiamo avuto il suo collega di partito, oltre che di carica, Cota, dire attenzione, insomma, noi siamo disponibili a una mediazione, perché voi sembrate anche abbastanza disponibili alla mediazione, ma la mediazione quale punto di caduta avrà secondo lei? Di usare la mannaia per chi pratica sprechi e di usare i guanti di velluto per le realtà virtuose, perché lei capisce che tagliare del 50% le spese per missione, se siamo tutti convinti che comunque gli amministratori, oltre ad andare a fare i viaggi per divertirsi, debbano anche andare a lavorare, ora il mio Veneto, se taglia del 50% le spese di missione, vuol dire che non si muove più, bene, non riesce più ad avere attività. Qualche altra regione d'Italia, se lei taglia il 50% le spese di missione, gliene restano talmente tanti soldi che continueranno a programmarsi anche le vacanze, magari, non solo le spese. Sì, fermo restando che io per esperienza sono contrario a qualunque missione della regione, non ha senso andare in Cina con la regione Veneto, andare in Brasile con la regione Veneto, lo dico molto chiaramente perché l'abbiamo viste, servono così a prendere le imprese. Se sono grandi vanno da sole, se sono piccole vanno con la Confindustria, con l'ABI, con il Ministero degli Esteri, con le regioni se vogliono, ma insomma anche recentemente in Cina abbiamo visto continue delegazioni regionali arrivare lì e chissà che peso specifico avere, no? Su 1,5 miliardi di cinesi, qualche milione di abitanti. Concordo con lei, tanto è vero che la Regione del Veneto questo non l'ha fatto, però spese per missione, sempre per fare informazione civica, significa permettere ad esempio agli amministratori di lavorare, di recarsi nelle sedi di Bruxelles, negli incontri ufficiali istituzionali dove si va a discutere in giro per l'Italia piuttosto che in Europa. Temi che riguardano le proprie regioni, per cui guardi, io non voglio fare la parte di quello che difende prebende o privilegi, dico solo che è bene avvisare, questo è obbligo nostro, i cittadini, che se la manovra passa così non ci saranno spazi per dare risposte, non alle spese di permissione, al sociale e a molti altri servizi. Se poi qualcuno fa l'idea che i governatori, noi ci siamo incontrati con tutti i sindaci di capoluoghi delle città capoluogo Veneto, quindi qui 7 sindaci del Veneto, e se qualcuno fa passare l'idea che i governatori e i sindaci sono tutti impazziti, va bene, no. Il tempo sarà galantuomo, come dice mio padre. No, ma guardi, noi abbiamo dato ampissimo spazio proprio agli amministratori locali, perché riteniamo, insomma, che è pesante la parte della manovra su di voi. Un'ultima battuta, Presidente Zaia, tecnicamente però è possibile, cioè, questo glielo chiedo ma non lo so, voi dite levate più soldi alle regioni sprecone E toccate di meno noi che in realtà lavoriamo già a budget, ma è tecnicamente possibile? Cioè il governo può fare una finanziaria in cui dice do 600 milioni in meno alla Sicilia e solo 50 milioni in meno al Veneto? Non penso, però mi dica. Lo può fare, perché si introduce il principio dei costi standard. Io stabilisco che una radiografia deve costare come costo standard in un ospedale 100 euro. chi la fa costare 500 euro sa che i 400 euro in più se li paga. E quindi noi dobbiamo sforbiciare. Ma guardi che l'unica via di uscita per questo paese è applicare il federalismo fiscale con i costi. Sì, no, ho capito, è che i tempi per il federalismo fiscale con questa manovra che deve essere approvata non li vedo io, però insomma tutto qua. Perché però possiamo applicare dei coefficienti e vedrà che il governo non ci deluderà. Oh, va bene. Noi ce lo auguriamo perché siamo da sempre per l'efficienza del centro, del nord, certo, del sud, del paese, e ci mancherebbe. E quindi vedremo che punto di caduta, che punto di accordo si riuscirà a trovare. Grazie, buon lavoro al Presidente del Regione Veneto. Buon lavoro a voi, buonasera a tutti. Luca Zaia. Ultimo aggiornamento dell'America, meno 2,20%, e domani è un altro giorno, l'euro è 1,2197, vediamo cosa capiterà. Tanto in questo periodo le notizie non mancano, noi ci risentiamo alle 17 da Sebastiano Berigioni, l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.